78. Для воплощения в коренированном подпринимательстве кодирование, копирование и распечатка документов. Attenzione, che ci sono 10. Aspetta alle 10. E bello, buttaci una pasta che è pronta. E bello, buttaci una pasta che è pronta. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Hola. Attenzione, canale 10.